1, 2, 3, prova, prova microfono, spegni il grammofono. Ciao a tutti, sono Gigi D'Agostino, volevo presentarvi l'ultima puntata del programmino. Yeah. onda. We'll be right back. arrivata qualche lettera da qualche ascoltatore che mi chiede come mai insomma esprimo sempre pensieri o aforismi o riflessioni insomma piuttosto negative, ma volevo dire questo, non sono assolutamente negatività, sono semplicemente spunti per pensare, per mettere in discussione magari qualche pseudo certezza, no? E quindi non c'è assolutamente nulla di negativo, anzi è solo un modo come un altro per affrontare forse meglio il gioco della vita, cercando di non nascondere delle verità che secondo me non sono assolutamente tristi, insomma non c'è nulla di negativo in tutto ciò, è un bellissimo gioco che ripeto è quello della vita e mi piace associare tutto ciò alla musica perché la musica fa un riposino e solo parlando delle cose che mettiamo in discussione altre cose e solo dando continuamente input, no? Ai nostri sensori che riusciamo a fare altri passi ad evolverci a conoscere sempre più ma semplicemente per poter mettere sempre meglio in discussione ogni cosa che facciamo, ogni decisione che prendiamo, ma anche nelle cose belle, nei giochi, anche nella musica, per poter rimettere magari in discussione tutto ciò che abbiamo ascoltato fino a quel giorno, magari per poter apprezzare altre cose. Non vuol dire per forza andare avanti, non vuol dire essere avanti, essere avanti non vuol dire niente. È bello semmai conoscere molto per poter scegliere di più. È bello conoscere molto meglio se stessi per poter scegliere di più con chi stare. Insomma, è molto meglio divertirsi la vita che subirla. Questo è un semplice pensiero che comunque rimetto in discussione ogni mattina. benvenuti, buongiorno. Questa è l'ultima puntata per il programmino e... che succede con la musica. È strano sapere che una canzone, una nuova canzone o un nuovo brano strumentale non possano trovare spazio in un posto, forse in un territorio, in un mondo dove chi ascolta la musica, a volte anche chi la propone, sceglie solo ed esclusivamente un brano musicale che possa rientrare nei canoni di quelli che ascolta già, o che ogni pensiero o ogni brano debbano rientrare per forza assolutamente nei canoni di ciò che già conosce. Insomma, perché la mente umana tende a scegliere sempre solo il sentiero che conosce già? È questo che io mi chiedo sempre. A volte ci sono delle cose nuove che non è detto che ci debbano piacere, ma è necessario percorrerle per capire tutto ciò. E proprio parlando di musica, sarebbe interessante sapere di più per poter scegliere di più. Quindi una persona deve necessariamente ascoltare molti tipi di musica per poter scegliere quale sia il genere che veramente ti piace, anche se non si vuol parlare di genere, perché no, preferisco di no. Si può parlare di suoni, di ritmi diversi, e allora una persona, secondo me, per poter scegliere cosa ballare o cosa ascoltare, deve conoscere molto di più, e quanto più conosce, tanto più sceglie. È sempre quello lì il concetto. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Sento dentro. rumore, senza conoscere e aver visto il colore del dolore, ma ne parla per amore, del sapore, di creare lo stupore tra la gente che non sente. Che brutto tempo, che brutto tempo, se non c'è tempo per dire ancora qualche volta siamo in tempo. Che brutto tempo, se non c'è tempo per dire ancora qualche volta siamo in tempo. Che brutto tempo, se non c'è tempo per dire ancora qualche volta siamo in tempo. Schiavi del tempo, schiavi del tempo. Questa canzone mi piace dentro, e il suo messaggio mi coglie in centro, e il suo ritmo mi batte dentro. Ora scusate, non ho più tempo, devo andare all'appuntamento con della gente che ha poco tempo. Se arrivo tardi, io che farò? Scusate tanto, io gli dirò, ho fatto tanto per essere qua, ma purtroppo all'ultimo momento ho avuto un imprevisto, un incidente, sono inciampato, stavo male. Mi è successa quella cosa che succede a quelli che non arrivano più in tempo e non si spiegano il perché. Mi è successa quella cosa che succede a quelli che non arrivano più in tempo e non si spiegano il perché. Mi è successa quella cosa che succede a quelli che non arrivano più in tempo e non si spiegano il perché. Mi è successa quella cosa che succede a quelli che non arrivano più in tempo e non si spiegano il perché. Mi è successa quella cosa che succede a quelli che non arrivano più in tempo e non si spiegano il perché. Sa quella cosa che succede a quelli che non arrivano più in tempo e non si spiegano il perché. In agosto il programmino si fa un bel riposino e forse torna a settembre, e se torna a settembre chi lo sa, speriamo, perché è stato bello. Volevo ringraziare Radio Italia Network e tutta la sua famiglia per avermi ospitato, e a tutti voi per avermi ascoltato. Grazie, ciao.